Visionari, giovedì 3 novembre del 2016, 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla trasmissione e sulla scaletta di oggi le trovate sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, spesso e volentieri subito dopo il giornale radio delle 13. Eccoci con Simona Fasulo, autrice del documentario Goliarda Sapienza, il vizio di essere se stessi, che andrà in onda su Rai Storia il prossimo 8 novembre. Simona, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Tutto bene? Tutto bene, sì, sono in un posto un po' speciale perché sono alla fermata della metro di Piramide. Per trovare un luogo un po' meno rumoroso ho scoperto il polo museale dell'ATAC, che devo dire è molto interessante, non c'è nessuno. Goliarda mi porta anche qui. Allora, ci siamo sentiti poco fa e tu hai precisato giustamente che sei autrice del documentario, non è tua la regia. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Allora, il progetto è un progetto appunto su questo personaggio che non tutti conoscono. Goliarda Sapienza è una donna un po' particolare, diciamo, una donna che indipendente, ecco, diciamo che forse questa sua grande indipendenza di pensiero l'ha portata un po' fuori dai gruppi prestabiliti e quindi lei ha sempre lavorato molto, ha fatto l'attrice per molto tempo, ha fatto la sceneggiatrice e poi finalmente ha approdato alla narrativa. E però prima di riuscire ad avere un grande successo, diciamo che il grande successo purtroppo l'ha avuto soltanto dopo la sua morte. Il progetto quindi del documentario nasce proprio da qui, da far capire, da spiegare a tutti, da raccontare questa storia di questa donna molto molto molto moderna, morta nel 96, quindi non tantissimo tempo fa, che molti purtroppo ancora non conoscono. E la regia di questo documentario che è stato fatto insieme con Nicoletta Nesler e andrà in onda su Rai Storia, come hai giustamente detto te, martedì sera alle 22:10, nell'ambito di quella serie di ritratti italiani. Sì. E quindi Goliarda Sapienza, perché il vizio di essere se stessa? Perché lei resta se stessa sempre e da sempre, e ha una vita singolare perché lei è figlia di due di una sindacalista, forse la prima sindacalista italiana, una donna nata nel 1880, che ha sette figli e poi si unisce con un altro uomo dopo la morte del primo compagno e partorisce lei questa bambina che viene, come racconta lei stessa in uno dei suoi romanzi, allattata da suo fratello, perché loro, i genitori, non hanno tempo molto da dedicare ai figli, alla bambina piccola, perché hanno da lottare con tutto quello che sta succedendo in quell'epoca. Lei è del 24, quindi già stiamo durante il fascismo, e quindi la mamma viene continuamente arrestata e rilasciata, e lei abita a Catania insieme con il padre, che è detto l'avvocato dei poveri. Insomma, immaginiamo questo scenario, no, in cui cresce questa bambina con tanti fratelli che si curano di lei, e una grande ideologia, diciamo così, che succhia con latte in polvere, che le somministra il fratello per crescerla, e questa ideologia che però la rende profondamente libera, proprio perché lei poi non abbraccerà mai veramente nessuna chiesa, sarà sempre libera. Lei sarà amata dalle femministe, ma lei delle femministe americane dice: sono preti in gonnella. Lei amerà le donne e dirà: io vorrei essere bisessuale, ma quando ho incontrato le lesbiche non ce l'ho fatta, perché sono troppo preti anche loro, sono tutte chiuse nella loro ideologia, no? E quindi lei è sempre libera. Questa libertà forse è molto di grande importanza e di grande educazione anche per noi e per tutte le generazioni più giovani di donne, no? Senti Simona, come avete realizzato il documentario? Avete utilizzato sicuramente materiali d'archivio anche. Abbiamo materiali d'archivio, abbiamo un'intervista lunga che lei stessa ha rilasciato 2 o 3 anni prima della morte, che, in cui appunto si racconta, lei racconta se stessa in un modo divertente, accattivante, piacevolissimo, senza peli sulla lingua. Infatti noi abbiamo insomma preso naturalmente alcuni brani di questa intervista. Poi abbiamo utilizzato anche un altro documentario che era stato fatto su di lei dopo la morte invece, che si chiama Vuoti di memoria, nel quale si intervistavano le persone che le erano state accanto, come per esempio il suo compagno per 18 anni che è Citto Maselli. Lei infatti è ricordata soprattutto come la moglie, anche se in realtà non l'ha mai sposato, perché la mamma sindacalista le ha detto non ti sposare mai finché non c'è il divorzio. Quindi Citto Maselli non l'ha mai sposato, però ci ha convissuto per 18 anni. E Citto Maselli racconta di Goliarda, e per esempio racconta del giorno in cui Goliarda è morta da sola nella sua casa a Gaeta. L'hanno ritrovata 3 giorni dopo perché ha avuto un infarto ed è caduta per le scale e nessuno l'ha cercata per 2 o 3 giorni, e lui racconta che lei aveva chiamato per dirgli se magari poteva andare con lui a Venezia, visto che c'era il festival e c'era un suo film, un film di Citto a Venezia, e lui ha detto ma no, lascia stare. E per tutta la vita lui dice io mi porto dietro questo dolore di non avere invece accolto questa proposta, diciamo così. E poi c'è tutta la storia di quello che viene considerato il suo capolavoro, che è L'arte della gioia, è un romanzo a cui lei lavora per 10 anni e si indebita tanto da commettere addirittura un furto, ruba i gioielli in casa di un'amica e li rivende per avere dei soldi per pagare le bollette, e lei finisce in Re Bibbia. Per il bene, che è una vita veramente particolare quella di Goliarda. Finisce a Re Bibbia, e da Re Bibbia nasce un altro bellissimo romanzo che si chiama L'università di Re Bibbia, perché lei dice c'è chi sciacqua i panni in Arno, io l'ho risciacquato a Re Bibbia, è lì che ho sentito, che ho capito come si gestisce la lingua, no? La lingua italiana. E tornando appunto all'Arte della gioia, è questo suo considerato appunto il suo capolavoro, un lunghissimo romanzo sulla storia di una donna, tanto per cambiare giustamente, di una donna che si chiama Modesta e che nasce il 1 gennaio del 1900, quindi attraversa tutto il secolo scorso con tutto quello che comporta il secolo scorso di cambiamenti, di guerre, di particolarità, e questa donna ha un destino singolare di emancipazione, diciamo così. Lei finisce di scrivere questo libro all'inizio degli anni 70 e cerca di pubblicarlo in tutti i modi, ma non glielo pubblica nessuno. Lei ormai si è indebitata, quindi fa una vita appunto un po' più difficile, poi riesce a pubblicare all'Università di Re Bibbia, però quella sua creatura, quella Modesta, quella protagonista lì, non riuscirà mai in realtà a vederla completamente affidata al pubblico, perché purtroppo la pubblicazione arriva soltanto dopo la sua morte, ma la cosa bella è che la pubblicazione arriva dopo la sua morte e comunque non ha nessuna eco. Viceversa, legge questo romanzo al Salone del Libro di Francoforte in italiano una tedesca, se ne innamora, quindi la prima grande importante pubblicazione è tedesca. E da lì parte il tam-tam delle donne soprattutto, e quindi viene pubblicato poi in Francia, poi in tutto il resto del mondo, naturalmente poi arriva anche in Italia nel 2008 e da lì si comincia a parlare di Goliarda Sapienza come di una grande scrittrice. Questo purtroppo in Italia succede spesso, no? Di dover essere apprezzati all'estero per poi essere riconosciuti anche nel proprio paese. Senti Simona, allora ricordiamo intanto che andrà in onda su Rai Storia il prossimo 8 novembre. Ti chiedo a questo punto anche i riferimenti web per saperne di più su questo lavoro e sul suo poi percorso. Allora, i riferimenti web sono come sempre il sito di Rai Storia, perché poi Rai Storia sicuramente dopo l'8 novembre metterà in linea il documentario. Per il momento è questo, poi come sai tutte le volte che ci sentiamo dico che sto preparando il mio sito e non riesco più a farlo. È una cosa che rimane in sospeso. Infatti, ma magari chissà la prossima volta. Sì, non demordiamo. Un abbraccio Simona e alla prossima. Grazie tante, ciao. Federico. Buonasera. Ciao. Simona Fasulo, regista del documentario, autrice del documentario Goliarda Sapienza, il vizio di essere se stessi, su Rai Storia, il prossimo 8 novembre, martedì. Allora, in collegamento con Cinzia Masotina dello Scrittoio per parlare della distribuzione del film Night Watching di Peter Greenaway, che è in uscita in sala il prossimo 6 novembre, ossia sabato, e a Roma sarà proiettato alla presenza del regista Greenaway al Teatro Argentina domenica 6. Cinzia, ci sei? Hai trovato una sistemazione? Ho trovato la sistemazione, ciao Federico, ciao a tutti. Ben ritrovata. Grazie. Allora. Ancora con te a parlare di Peter Greenaway, stavolta di cosa si tratta? Allora, anche qua si tratta di un'opera inedita in Italia, se non per la partecipazione a festival o a eventuali rassegne. E diciamo che quello che ci ha spinto a fare un'operazione analoga a Goldschuster and American Company è stata proprio l'idea che il cinema di uno dei pochi autori e maestri rimasti di cinema non potesse vedere la luce negli schermi. Night Watching è una storia meravigliosa, bellissima, ci parla di Rembrandt, ci parla di arte, ma ci parla anche della sconfitta di un uomo, che poi invece la storia dell'arte ovviamente ha riportato agli allori. Ci parla di nuovo di un cinema forte, colto, immaginifico, ci parla di un regista come Peter Greenaway a tutto tondo. Quindi perché doveva rimanere soltanto appannaggio di eventuale rassegno festival? Questa volta abbiamo scelto un weekend di eventi e quindi non una circuitazione in teatri in giro per la penisola, e una contemporanea con Cecchi Gori, quindi con l'uscita on video, cercando comunque di dare questa presenza nelle maggiori città italiane, quindi appunto a Roma sarà al Teatro Argentina domenica 6 alle ore 21, peraltro le prevendite sono già aperte, ma il sabato precedente saremo a Firenze, all'Odeon di Firenze, sempre la presenza di Peter Greenaway. Saremo a Milano la mattina di domenica 6 novembre a l'Anteo di Milano, luogo importante per, diciamo, i cinefili e non milanesi, all'interno di questa particolare spazio dedicato proprio al cinema e l'arte, e infine lunedì a Riccione all'interno di questa altra vetrina importante che mette in relazione teatro, arte e cinema. Senti, queste le motivazioni. Senti, più passano gli anni e più il cinema di Peter Greenaway è strettamente legato al teatro e anche a un'estetica pittorica. Assolutamente, diciamo che quando Peter Greenaway nelle sue introduzioni, perché a me piace dire la presenza del regista, quando del regista è Peter Greenaway, è una lezione di cinema, quindi invito tutti a venire fosse solo per sentire parlare Peter Greenaway e per sentire quella che è la sua profonda cultura, che non è mai arrogante, perché la cultura non è mai arrogante, è lì, è sedimentata e si offre nei suoi film. Sicuramente, ricordiamoci che Peter Greenaway è pittore, nasce come artista. Sì. Ma se noi facciamo riferimento anche ai primi film conosciuti in Italia di Peter Greenaway, ci renderemo conto che comunque la disposizione dell'immagine ha molto a che vedere con la pittura. Certo. Pensiamo soltanto ai giardini di Compton House. Sicuramente questo Night Watching fa parte di una trilogia di cui ancora è in produzione l'ultima, diciamo, episodio, chiamiamolo così, dedicato a Bosch. Quindi questo comunque si inserisce in un percorso d'autore. Sì. Con la volontà di parlare e di fissare riflettori su determinati artisti e su determinati momenti della storia dell'arte, estremamente significativi non solo per l'arte ma anche nel rapporto fra artista e i suoi committenti. Di nuovo qua in Night Watching lo vedrete, me lo auguro che sarete numerosi a volerlo vedere, così come Rainbow Sius, di fatto si parla di una committenza e delle problematicità, quindi dico ci sta parlando nuovamente del presente Greenaway, anche se ci parla di Rembrandt. Sì, sì, sta parlando di questa difficile possibilità per chi fa cinema e non solo, di misurarsi con quelle che sono le logiche del mercato e il cosiddetto desiderio del pubblico, un desiderio che deve essere, secondo Peter Greenaway, sempre fomentato, sempre titillato e non semplicemente pedissequamente seguito, magari con l'indice di ascolto in televisione o col numero di biglietti in un cinema che fanno sparire i nostri film, anche i più belli, dopo il primo weekend. Allora Cinzia, ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, ovviamente per chi sarà a Roma, il sito del Teatro Argentina, quindi www.teatrodiroma.it, la pagina Facebook di Lo Scrittoio è sempre attiva con tutti gli aggiornamenti, le prevendite sono aperte. Voglio anche ricordare una cosa, vi sono delle promozioni di Feltrinelli, di librerie Feltrinelli, quindi invito a vedere il sito anche di Feltrinelli sulle tre città di cui appunto vi ho parlato, quindi Firenze, Milano, Roma e Riccione, perché i lettori affezionati di Feltrinelli potranno avere 50 biglietti in omaggio. Cinzia, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie mille a te e ciao a tutti voi. Ciao ciao. Ciao. Cinzia Masotina dello Scrittoio sulla distribuzione del film Night Watching di Peter Greenaway in uscita in sala dal 5 novembre prossimo. Ritroviamo Fabrizio Cattani, stavolta regista del film La vita pignorata, in uscita in sala il 7 novembre prossimo, lunedì. Fabrizio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao e grazie a voi del nuovo invito. Il titolo del film è Cronaca di una passione, in effetti ci sarebbe bene come sottotitolo La vita pignorata, perché a quello si riferisce, insomma, alla crisi economica, ai suicidi per colpa della crisi economica. Ok. Benissimo. E, allora raccontaci un po', già hai cominciato la storia del tuo film, di cosa si parla? Sì, il film nasce da alcuni accadimenti che ahimè purtroppo sono successi realmente in questi anni in Italia. Considera che dal 2012 al 2015 in Italia ci sono stati 628 suicidi legati alla crisi economica e purtroppo all'inizio del 2016 e anche in questi ultimi mesi non è che siamo diminuiti, anzi la media rimane a livelli molto alti. E io fui molto colpito appunto da un paio soprattutto di questi casi, allora avevo visto che appunto non era stato ancora trattato al cinema così in profondità, diciamo così, l'argomento, e allora ho preso carta e penna e ho cominciato a buttare giù delle idee che poi sono trasformate appunto in questo soggetto e sceneggiatura che abbiamo realizzato in coproduzione fra tutti coloro che hanno partecipato alla lavorazione del film. Un film piccolo, costato 70.000 euro, girato in 18 giorni, che però mi sta dando molte soddisfazioni, perché comunque abbiamo fatto degli screening test con il pubblico del Nord Italia, a cui è piaciuto moltissimo, e ora il 7 di novembre, appunto lunedì prossimo, usciremo nelle sale facendo una sorta di tour teatrale, cioè porteremo il film porta a porta nei cineforum di tutte le città d'Italia. Partiremo dal nord-est, che è la regione peraltro che ha avuto purtroppo la più alta percentuale di suicidi legati appunto alla crisi economica, e poi ci sposteremo al centro e al sud. Senti, per quanto riguarda la realizzazione, la produzione, ci hai parlato di questa produzione partecipata, appunto, che ha coinvolto anche tutto il cast, e per la distribuzione stai parlando, ci hai detto appena adesso di questa formula da tour, insomma. Non voglio essere polemico, però è un dato fatto che le distribuzioni in Italia tendono a promuovere film facili di cassetta, capito? Certo. Commercialmente molto appetibili, film d'autore, film più particolari, che hanno tra l'altro un tema così difficile come può essere quello del suicidio, per loro non è allettante. Quindi ti dico sinceramente, neanche li ho cercati i distributori. Abbiamo deciso sin da subito di fare un'operazione di questo tipo, cioè distribuircelo da solo, da soli, andando appunto porta a porta, praticamente coinvolgendo quelle realtà che fortunatamente in Italia esistono ancora, di piccole sale che continuano a promuovere un cinema d'autore. Sì. Senti, più o meno come sarà l'iter, il tour nazionale, insomma, vi muoverete a macchia di leopardo? Sì, esattamente, cioè inizialmente no, faremo il Triveneto, proprio perché abbiamo voluto dedicare questo spazio a questa regione veramente martoriata dai suicidi per la crisi, e poi andremo a macchia di leopardo, ci muoveremo praticamente tra nord e sud, dove troveremo appunto quelle sale disponibili a prenderci il film. La cosa interessante è che ci stanno supportando anche delle associazioni locali che stanno aiutando le persone, le famiglie in difficoltà, e quindi interverranno anche loro facendo proprio anche dei dibattiti magari dopo la proiezione del film. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti anche se durante la scrittura ti sei interfacciato con storie di questo tipo, e se esistono associazioni o strutture che si occupano di questa problematica. Sì, purtroppo sì, ho avuto a che fare con realtà veramente molto difficili, ho conosciuto persone che hanno attraversato veramente dei momenti non solo familiarmente dolorosi, perché comunque in famiglia alcune di loro hanno vissuto la perdita di un caro per suicidio, e ci sono realtà che spaziano veramente da qualsiasi tipo di problematica legata alla crisi, che può essere quello del piccolo imprenditore che non ha i soldi per pagare i contributi ai dipendenti e quindi riceve questa cartella esattoriale di Equitalia che si triplica e non riesce a far fronte alle spese, e quindi è costretto a chiudere, magari perdendo anche gli immobili. Guarda, recentemente è successo a me in Toscana, tra l'altro una persona che conoscevo molto bene, che ha perso la casa, che tra l'altro era la prima casa, e poi si dice che non si può perdere la prima casa, invece è successo davvero, perché non è retroattiva la legge evidentemente, che hanno fatto da poco, e purtroppo lui si è visto perdere quella cosa che per una vita ha seguito, costruito, si è impegnato, e si è suicidato. Quindi ce ne sono tantissime di realtà difficili e complicate. Devo dire che appunto stanno nascendo delle associazioni di tutto, cioè, che aiutano queste persone in difficoltà. Una in particolare si chiama Gli Angeli della Finanza, che appunto ci supporteranno in questo tour dove saranno presenti, che si adoperano molto per aiutare famiglie in difficoltà. Senti, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più anche rispetto a dove trovare il film, sul web, se hai un tuo spazio? Sì, c'è la pagina Facebook, se no guarda, c'è il sito che è cronacadunapassione.it, dove c'è un calendario che viene costantemente aggiornato sulle sale. Benissimo. Dove è stato programmato il film, quindi basta andare sul sito e si vedrà tutto quanto. Fabrizio, io ti ringrazio, un abbraccio e speriamo a presto. Grazie a voi, tanto a presto, un abbraccio, ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Fabrizio Cattani, regista del film Cronaca di una passione, in uscita in sala il 7 novembre prossimo. In collegamento con Marco Visalberghi, produttore del documentario L'anima nera di Donald Trump, The Nazi Hustler, in uscita in sala il prossimo 7 novembre, cioè lunedì. Marco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, molte grazie per essere con voi. Allora, raccontaci un po' di questo progetto. Allora, questo progetto nasce, come spesso nascono i progetti, un po' per caso. Il regista Riccardo Valsecchi è comparso dal nulla nel mio ufficio oltre un anno fa, parlandomi del fatto che si era trasferito negli Stati Uniti e che era rimasto molto colpito da alcune figure di neonazisti americani. Lui aveva vissuto a lungo in Germania, si era occupato dei gruppi neonazisti, arrivando negli Stati Uniti era rimasto molto impressionato soprattutto da David Duke, che come forse saprete è stato per tanto tempo il capo del Ku Klux Klan, dove è entrato addirittura a 17 anni e ha dato un po' una svolta a quella che era stata l'organizzazione al punto del Ku Klux Klan, ripulendola, cercando di bloccare le azioni più facinorose, ma di ripulirla e inserirla nella scena politica americana. E mi ha parlato del suo progetto, io mi ci sono entusiasmato e ho cominciato ad aiutarlo in questo suo lavoro che ha portato avanti nell'anno e mezzo scorso. Allora, si parla di come quest'anima nera sia una parte anche pericolosa e importante nella campagna elettorale di Donald Trump per le prossime elezioni presidenziali. Marco, io ho avuto modo di vederlo proprio ieri sera, il documentario. Uno degli aspetti che saltano più all'occhio è la consueta retorica dell'estrema destra, che tende a ribaltare completamente la prospettiva, nel senso che lui parla della difesa dei diritti dei bianchi, offrendoci una realtà completamente opposta rispetto a quello che poi ci dicono le cronache. Questa è veramente la cosa stupefacente, cioè lui riesce intanto a parlare dell'uomo bianco come un panda che va difeso e protetto perché rischia l'estinzione. Parla di più, parla anche di una cricca massonico-giudaica che sta guidando gli Stati Uniti e lo sta portando al disastro, aprendo i confini a immigrazioni di ogni tipo, neri, ispanici e così via in primis, ma insomma di ogni tipo e genere, da cui noi razza bianca, lui tra l'altro quando parla di razza bianca parla molto anche della cultura europea, cita Bach, Beethoven come le grandi icone da difendere, e si ispira a Mussolini e Hitler e sostanzialmente ritiene che l'olocausto non sia mai esistito, ma che sia stato un semplice tentativo di difendere appunto la razza bianca. In tutto questo la figura di Donald Trump rappresenta per lui, ma non solo per lui, anche di una varia galassia legata appunto all'estrema destra, un trampolino di lancio comunque, un'occasione. Ma diciamo che è un nuovo trampolino di lancio, perché questo Duke è stato intanto governatore, ha corso due volte addirittura alla presidenza parecchi anni fa, è stato uno che è circolato molto nella scena politica americana, in cui trova adesso in Trump e in quelle dichiarazioni, no, di Trump che vuol costruire un muro contro i messicani e tra l'altro farlo pagare i messicani. Sì. Trova in queste dichiarazioni di Trump terreno facile. La cosa stupefacente è che la reazione di Trump non è dire sì mi sta bene o no non mi sta bene, ma è uno che pattina dicendo, prima dice ma chi è questo signore, e poi dice sì vabbè ma insomma dice delle cose, insomma accetta sostanzialmente che Duke faccia campagna per lui senza mai dissociarsene. E piccolo particolare, tenete presente che a me risulta che Trump abbia anche una moglie che è ebrea, tra l'altro, quindi è stranissima questa combinazione. Senti Marco, per quanto riguarda questo documentario, ci racconti un po' di questa uscita che, non sbaglio, coprirà tre giornate? Sì, ma guarda, questo documentario noi abbiamo accelerato la chiusura proprio perché improvvisamente Duke, su cui lavoravamo, è diventato un personaggio importante per queste elezioni e per capire quanto di torbido ci sia all'interno dell'elettorato che voterà per Trump. Abbiamo fatto questa grande corsa, sembrava che sarebbe finito e trasmesso dalla RAI, poi per una serie di problemi non siamo riusciti a chiudere lì e quindi abbiamo deciso di fare un'operazione combinata tra Cineama, che è stato un distributore che ha distribuito per noi vari altri documentari di cui siamo stati molto contenti in passato, e invece La Repubblica, che ci ha dato un'enorme mano nel tentativo di lanciarlo. Lo distribuirà attraverso My Movie e attraverso il cinema di Repubblica. Ho un'altra cosa rispetto invece al lavoro vero e proprio. Ci sono stati si vedono anche nel video una serie di interlocutori tra cui lo stesso Duke che parla con molta tranquillità e si apre completamente a questo interlocutore italiano che va a intervistarlo. Assolutamente sì, però permettimi di fare un piccolissimo passo indietro, sì. Se no qui mi sgridano in modo orribile. Vorrei solo dire che il 7 novembre usciamo a Roma, saremo al Detour all'Apollo 11 e dove faremo in fondo la prima mondiale di questo documentario. Ok. Tornando invece a quello che mi chiedevi, sì, in effetti Riccardo Valsecchi è riuscito a stabilire con Duke un rapporto in qualche modo personale, a passare con lui diverse giornate, a fargli delle lunghe interviste, cercando di capire, perché per chi di voi che vedrà questo documentario resterà colpito da una cosa: da un aspetto un signore, un ex bel giovanotto, ormai un po' invecchiato e con un'aria vagamente dimessa, che viene fatto ripensare, ma tutto sommato un personaggio innocuo, e poi pian piano, passando con lui del tempo, si scopre che invece è stato una delle prime persone che ha trasformato la suo far proselitismo dagli strumenti tradizionali verso la rete. Sì, esatto. Ha un numero di seguaci in giro per il mondo che fa paura, si parla di milioni di persone che lo seguono. C'era un'agenzia proprio ieri che diceva che oltre il 35% dell'elettorato che vota per Donald Trump segue Duke sui suoi siti, che, come dire, spargono odio contro gli ebrei, contro i neri, contro gli ispanici e contro questo tipo di minoranze. Quindi non è quel vecchietto che sembra, è un signore che sa manipolare molto bene la rete, e la rete in un momento in cui, devo dire, a me fa molta paura, perché dopo averla salutata come il massimo della democrazia e delle possibilità di offrire a tutti la possibilità per informarsi e capire meglio il mondo in cui viviamo, ci sono una serie di ricerche molto nuove che dimostrano che in realtà la rete non fa altro che estremizzare le persone che la seguono, cioè sembra che ci sia una strana matrimonio diabolico tra gli algoritmi che regolano la rete e il modo in cui noi ragioniamo, per cui andiamo sulla sì. rete e ci convinciamo dei nostri pregiudizi. Sì, anche la perché rete... polarizza persone che la poi pensano allo stesso modo, insomma, esattamente, crea gruppi che... Esatto. che si convincono sempre di più dei loro pregiudizi e anche spesso di enormi falsità che non hanno assolutamente nessun tipo di realtà, ma che sono semplicemente delle menzogne che crescono su se stesse, scusatemi, diventando ad un certo punto delle verità solo perché vengono rinforzate da tutti. Sì, sì, sì, sì. Senti Marco, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, c'è una pagina Facebook che si chiama appunto L'anima nera di Donald Trump, c'è e non so cosa, il nostro sito, trovate informazioni sul nostro sito che è doclub.it e soprattutto quello che io su La Repubblica, per tutti coloro che vorranno vederlo in modo digitale, sarà possibile iscriversi sia al cinema di Repubblica sia a vederlo attraverso MyMovie. Contiamo che, siccome siamo molto preoccupati delle prossime elezioni americane, contiamo che questo film documentario riesca in un qualche modo a aprirci il cervello, a farci capire le cose che ci sono dentro e che spesso non vengono dette. Quantomeno sì, a livello informativo. Sì. Marco, ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. Grazie moltissime a voi e sono stato molto contento di passare questi minuti con voi. Bene, a presto, ciao Marco. Arrivederci, grazie. Marco Visalberghi, produttore del documentario L'anima nera di Donald Trump, The Nazi Hustler, in uscita in sala il prossimo 7 novembre. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni le trovate sempre sul sito, home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Paolo Minuto di Cine Club Internazionale Distribuzione per parlare del film Un mostro dalle mille teste in uscita in sala oggi giovedì 3 novembre. Paolo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, vi ringrazio per avermi invitato ancora a parlare di un nostro film in uscita. Ti sento un po' disturbato. Spero che vada a migliorare okay. la linea. Saluto tutti e vi ringrazio per avermi chiamato ancora a parlare di un nostro film che è uscito, appunto Un mostro dalle mie stesse di Rodrigo da oggi nelle sale italiane. Allora Paolo, un autore messicano che avevamo già conosciuto con un sorprendente film qualche anno fa, La Zona, e questo invece raccontaci un po' di cosa parla. Sì, effettivamente Rodrigo Plà lo avevamo scoperto alla Mostra di Venezia nel 2007 con La Zona, quando vinse il Leone del Futuro, diciamo un Leone del Futuro ben assegnato, perché dopo il successo anche nelle sale italiane di quel film, dopo alcuni film che in Italia non sono arrivati, con Cineclub Internazionale Distribuzione arriva Un mostro dalle mille teste. In questo caso non si occupa di una zona, di una città che si protegge, alla fine si protegge dalla violenza, alla fine finisce per fare essa stessa violenza, ma riguarda la lotta di una donna che per difendere la salute del marito si trova a lottare contro le corporazioni e in particolare in questo caso contro l'assicurazione privata sanitaria. È una donna normale, tranquilla, di classe media, ma che man mano, affrontando e scontrandosi con la burocrazia e con anche l'avidità di alcune assicurazioni private, non riuscendo a difendere la salute del marito, inizia a perdere in qualche modo la ragione e il senso, e inizia a fare delle cose che mai avrebbe pensato di poter fare, quindi anche impugnare un'arma. Senti, quello della salute sembra un tema che riguarda un diritto che corre dei rischi un po' da tutte le parti nel mondo. Abbiamo parlato qualche giorno fa anche del film Io Daniel Blake, che è uscito anche questo ed è nelle sale in questi giorni, e per quello riguardava l'Inghilterra, ma insomma il problema sembra presentarsi un po' ovunque, è dovuto soprattutto alla privatizzazione di un diritto. Certo. E alle grandi Certo. corporazioni che fanno il bello e il cattivo tempo in questo senso. Certo, effettivamente Rodrigo Plà ha costruito un racconto che anche basato su momenti anche processuali, ma tutti per brevissime sequenze, per cui un film di un'ora e un quarto, molto secco, molto movimentato, molto veloce, in cui diversi punti di vista si confrontano. L'eroina che si deve difendere in questo caso diventa poi anche un'antieroina. Nel film di Ken Loach effettivamente l'eroe rimane puro e rimane vittima poi di questo scontro. Effettivamente la privatizzazione sta andando avanti, ma dice Rodrigo Plà, questo poteva accadere anche se l'avversario fosse stata un'istituzione pubblica, perché il fatto che la privatizzazione vada così avanti è anche perché lo Stato fallisce nel momento in cui deve regolamentare l'avanzare della privatizzazione. Da questo punto di vista il racconto è universale, perché poi è tratto da un romanzo della compagna di Rodrigo Plà, che è Laura Santullo, di origini anche italiane. E quindi questa universalità ha fatto dire anche a qualche critico: in fondo siamo tutti messicani da questo punto di vista, perché poi questo confronto, questo duello particolare effettivamente parte dalle strade di Città del Messico, ma parla a tutto il mondo, perché sono dinamiche esportabili e ambientabili in qualunque zona del mondo. Senti Paolo, ripensando alla zona e questo nuovo film, nel frattempo che percorsi ha seguito l'autore? Ma l'autore ha realizzato un film che si intitola Il deserto dentro, un film molto intimista, e poi ha realizzato La Demora, la storia di un rapporto con delle persone anziane, il rapporto parentale con persone anziane, il ritardo significa La Demora. Però questi due film hanno avuto un'ottima eco festivaliera, hanno vinto anche dei premi, anche a Trieste al Festival Cinema Latinoamericano, però non sono usciti in Italia. Quindi sono contento che, pur essendo il quarto film di Rodrigo Plà, noi come Cineteca Internazionale Distribuzione riusciamo a portare al pubblico questo film, che ha debuttato a Venezia, ha aperto orizzonti e che quindi ha guadagnato da lì poi la ribalta internazionale. E credo da questo punto di vista che si rivaluti o si continui a valutare ed apprezzare la forza, la dinamicità, anche la capacità di innovare il suo linguaggio narrativo molto serrato, Rodrigo Plà, che appunto si fa accompagnare sempre nella scrittura da Laura Santullo. Paolo, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sulle sale e sul percorso del film? Certo, la nostra pagina Facebook Cineclub Internazionale ci trovate facilmente, oppure il sito cineclubinternazionale.eu, e lì trovate tutti i riferimenti, tutte le informazioni. In varie parti d'Italia stiamo anche girando con Rodrigo Plà, per cui in alcune città potrete avere anche l'opportunità di incontrare dal vivo Rodrigo, ma in ogni caso il film lo trovate un po' in tutta Italia, man mano speriamo anche di crescere in sale in cui il film uscirà. Benissimo. Allora, qui mi chiedo, non so se sia relativo mi è arrivato un messaggio che ci chiede di dire le sale, le città dove sarà il regista. Allora, il regista è già stato a Torino, Milano e Perugia. Questa sera sarà allo Spazio Alfieri di Firenze alle 9:30, domani sarà al Nuovo Eden di Brescia alle 17 e alle 21, e sabato sarà al Cinema Lux di Padova alle 17:15 e alle 19:10, e poi concluderà il suo giro all'Apollo 11 di Roma sabato con la proiezione a partire dalle 22:30. Benissimo. Paolo, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. D'accordo, grazie a voi, buona continuazione, buon lavoro e buon cinema. Ciao ciao, ciao Paolo. Grazie. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione sul film Un mostro dalle mille teste, in uscita in sala da oggi giovedì 3 novembre. Eccoci con Ginella Vocca, direttrice della 22esima edizione del Mad Film Festival a Roma, da domani 4 fino al 12 novembre. Ginella, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovati. Il festival non può partire se non incontro voi e il vostro pubblico. Felice di essere qui. Bene, bene. Addirittura 22esima edizione, è una storia lunga quella del Mad Film Festival. Per chi non lo conoscesse, ce lo racconti un po'? Guarda, è una storia lunga, ma è una specie di conto alla rovescia, nel senso che più va avanti e più è giovane questo festival, più va avanti e più è sul pezzo, come si dice. E quindi quest'anno abbiamo esagerato. Io ogni anno dico prima di tutto a me stessa e poi ai miei straordinari, meravigliosi, capacissimi collaboratori: per favore meno film. E invece sono 90. Ah. 90. Delle novità bellissime quest'anno, siamo riusciti finalmente a inserire una cosa che ci stava a cuore da tempo, e cioè la lettura. E quindi ci saranno 6 incontri con 6 autori, tra cui Gianni Amelio, che è al suo primo libro, e lo presenterà lunedì 7 al Museo Macro, che è una delle 2 sedi del festival, e insieme poi a Francesca Bellino col suo romanzo Sul corno del rinoceronte, piuttosto che Patrizio Nistirio, che parla della sua Grecia. E poi un'altra cosa bellissima di quest'anno, una new entry, sono i Cinefilia Short Lab. È un concorso dedicato alla scrittura di un cortometraggio ad opera di registi dell'area MEDA e registi italiani. Quindi saranno insieme in una sorta di conclave da cui usciranno con questo script, che speriamo possa trovare poi una produzione. Allora, tutto il cinema dell'area mediterranea, Ginella, è suddiviso in sezioni quest'anno, come funziona? Guarda, il festival ha le sue consuete tradizionali sezioni, quindi concorso lungometraggi, concorso documentari e concorso cortometraggi. Okay. Poi abbiamo le vetrine dedicate ai paesi ospiti d'onore, che sono Tunisia e Iran. Poi abbiamo la 6ª edizione dei Lux Film Days, nel 10° anniversario dell'istituzione del premio Lux, presenteremo a Roma 3 film europei, che rientrano poi in questo circuito virtuoso creato dal Parlamento europeo per la circolazione del cinema di qualità europeo nel territorio. C'hai detto di 90 titoli, più o meno da quanti paesi? Circa 50. 50 paesi. Sì. Quali sono i paesi in cui ti sembra più in fermento la cinematografia, e quali sono i temi più ricorrenti? Guarda, ci sono due macro aree che dobbiamo definire. Sì. Allora, la creazione artistica è assolutamente, addirittura quasi inversamente proporzionale alla difficoltà e alla guerra. Mm-hmm. Quindi sappiate che dalla Siria continuano ad arrivare testimonianze straordinarie. L'anno scorso vi abbiamo fatto vedere documenti che ci hanno inviato dei danzatori siriani, che hanno fatto delle riprese su delle rocche sotto cui si vedeva il disastro di Aleppo. Quindi diciamo che la creatività non si ferma da questi paesi, perché sono paesi dove la gioventù, dove i giovani sono tantissimi numericamente, per cui la spinta è molto forte, e questa è la macro area della creazione artistica. Poi abbiamo un'altra macro area, che è quella degli investimenti sul cinema. e quindi abbiamo il Marocco che sta investendo tantissimo sia nella produzione che nella formazione, e poi abbiamo gli Emirati che stanno investendo enormemente su determinate aree della zona, e faranno la differenza perché sarà un interlocutore molto importante perché è molto ricco. Senti, rispetto alle tematiche più ricorrenti? Le tematiche più ricorrenti sono degli approfondimenti sul tema dell'immigrazione. Per esempio, noi faremo rivedere nella vetrina tunisina il film che ha vinto il Leone d'Oro come opera prima, il film tunisino che ha per protagonista appunto un giovane che parte dalla Tunisia e fa il drammatico viaggio che tutti noi conosciamo dalle cronache, fino a perdersi in un universo surreale. E quindi diciamo che in linea di principio voglio dirvi che la selezione di quest'anno è una selezione tra virgolette popolare, nel senso che l'autorialità punitiva è stata bandita. Abbiamo privilegiato il racconto molto ben fatto di tanto cinema che viene da questi paesi. Sì. Abbiamo un'anteprima europea del film Giordano che sarà in proiezione, mi sembra, in concorso lunedì. Insomma, c'è un sacco di roba bellissima. Bene, e le selezioni più interessanti e più belle, sì, ci siamo superati. Io l'anno scorso devo dire ero molto molto contenta, quest'anno ci siamo veramente superati. Abbiamo dei film italiani meravigliosi. La vetrina tunisina è estremamente interessante, insomma su 90 titoli è difficile privilegiare questo o quello, però sicuramente vorrei privilegiare il film di apertura del maestro Yusri Nasrallah che sarà domani con noi al Cinema Savoy. Yusri Nasrallah è praticamente il più importante regista egiziano vivente, è della scuola di Youssef Chahine, che noi abbiamo portato a Roma e che voi avete avuto modo di conoscere e di intervistare. Insomma, questo mi va di dirlo. E poi mi va di fare un piccolo richiamo sul film Edi, che è in concorso per la Tunisia. Poi abbiamo due mediometraggi interessantissimi, sempre in concorso, tutti e due algerini. Insomma, ragazzi, allora, è veramente tantissimo. Allora, ripetici a questo punto luoghi, orari e giorni. Allora, saremo al Cinema Savoy da domani, 4 novembre, fino a venerdì o sabato 12, non mi ricordo che giorno è, dal 4 al 12 novembre. Il 12 è sabato. Perfetto, quindi da venerdì, da domani a sabato prossimo, dal 4 al 12, proiezioni tutti i giorni nella sala 4 e nella sala 2, dalle 16 alle 22:30. Benissimo. Mentre per gli incontri letterari ci vediamo al Macro tutti i giorni a partire da domenica alle 18. I riferimenti web? Ah, certo, www.medfilmfestival.org. Benissimo. Allora, Ginella, un abbraccio e a presto. A voi, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ginella Vocca, direttrice della 22esima edizione del Med Film Festival a Roma dal 4 al 12 novembre. Ottavia Piccolo, attrice del film 7 minuti di Michele Placido, in uscita in sala oggi giovedì 3 novembre. Ottavia, ben ritrovata a Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, grazie. Come state? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Era un po' di tempo. Malgrado il terremoto? Malgrado il terremoto, era un po' di tempo e non ci si sentiva da Il sangue e la neve che abbiamo mandato in onda in forma registrata. Partiamo adesso invece, parliamo adesso di cinema. Come lo riassumiamo in breve per chi ci ascolta il tema di questo film, Ottavia? Ma dunque, intanto il tema genericamente è il lavoro. Sì. La difficoltà e la perdita dei diritti e la mancanza di sicurezze. Sì. È un consiglio di fabbrica, 11 donne devono decidere se accettare una proposta della proprietà di ridurre la loro pausa pranzo da 15 minuti a 8, quindi rinunciando a 7 minuti della loro pausa, di qui il titolo, e il film è il racconto di questa, di questa discussione, detto così sembra arido, invece è intrigante, affascinante, ed è soprattutto come un thriller, perché fino alla fine ognuna delle donne che parla, che ha i suoi problemi, ognuna ha ragione e ognuna difende le sue ragioni, a partire dal mio personaggio che è, diciamo, l'operaia anziana ed è la rappresentante del gruppo, la portavoce del gruppo che porta alle sue compagne questa proposta della proprietà. Io credo che sia un film un po' diverso da quello che ci si potrebbe aspettare, perché in realtà è un film che racconta la vita di oggi, le nostre insicurezze, le nostre paure, appunto la mancanza di lavoro, la difficoltà una volta che uno ha ottenuto a mantenerlo, i ricatti che inevitabilmente divengono fatti da chi sta sopra, e insomma sì, tutto quello che ci abbiamo intorno e del quale si parla tutti i giorni anche nella nostra quotidianità, quindi ci sono 10 attrici oltre me, tutte straordinarie, a partire da Fiorella Mannoia, Ambrangiolini, Violante Placido, Cristiana Capotondi, Maria Nazionale, altre giovani, due francesi, molto brave tutte e due, Sabine Timoteo e Clémence Poesy, e poi Luisa Cattaneo, Erika D'Ambrosio. C'è anche Michele Placido che fa una partecipazione, e un'altra attrice francese straordinaria che si chiama Anne Consigny, che fa invece la proprietaria francese della fabbrica. Però tutto questo declinato in modo non sindacale, ma umano, dialettico, di gente che si parla. Sì. Senti Ottavia, tra l'altro a questo film e anche a te abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena. Grazie. Ci sei tu in strada col camice da lavoro davanti alle tue colleghe. No, allora avete pubblicato una foto sbagliata, perché quella foto con il camice l'avete presa dallo spettacolo teatrale. No, però in strada. Attenzione. Ah, sì, è in strada. Okay. No, te lo dico, okay, per certo. Okay. Non è la foto del film. Non è la foto del film, però non è la foto del film, è la foto dello spettacolo. E arriviamo al punto, perché insomma alla base di tutto c'è la scrittura di uno dei più validi drammaturghi della scena contemporanea, Stefano Massini, sì, che esatto. Insomma, da cui poi il film è stato tratto dallo spettacolo. Certo, lui insieme a Michele Placido hanno fatto la sceneggiatura, quindi rispetto alla versione teatrale ci sono delle differenze semplicemente nel racconto dei personaggi. La storia è la stessa, il mio personaggio è rimasto lo stesso, diciamo che le altre operaie sono raccontate diversamente. A questo proposito volevo dire, visto che parliamo dello spettacolo teatrale, che devo ringraziare tutte le mie compagne di lavoro dello spettacolo teatrale, e anche il regista, che era in quel caso Alessandro Gassman, perché se il film, o perlomeno se io nel film funziono, racconto bene il mio personaggio, e anche grazie al lavoro che avevamo fatto precedentemente, sì, insieme, sì, alle più di 200 repliche che avevamo fatto in teatro, raccontando tutte le sere questa storia che davvero tocca il cuore e il cervello di un sacco di persone. Senti Ottavia, secondo te quali sono i principali pregi della scrittura di Stefano? Ma io credo che avvicini gli argomenti più vari, perché davvero è un autore che non si ferma a una sola a un solo argomento, ma spazia davvero da tutte le parti, ma lo fa sempre intanto con una grande onestà, con una grande intanto con un grande studio anche, sì, sì. Le cose che racconta perché le ha studiate, le ha lette, le ha viste, è andato a controllarle, e poi ha una grande pregio, secondo me. Non c'è una maniera Massini, lui scrive di volta in volta, sì, in modo, sì, diverso a seconda dell'argomento che tratta, e questo per me è molto importante. Io ormai ho fatto, non mi ricordo nemmeno quanti più, forse 7-8 testi di Stefano Massini, e ogni volta è un lavoro diverso. Poi sì, ha un altro grande pregio, è che quando lui consegna un testo a un attore, a un regista soprattutto, non interviene più. Da quel punto in poi il lavoro è tutto degli interpreti, sì, o sul palcoscenico, e questa volta invece nel caso della sceneggiatura sul set. Perché questo è una grande cosa, se no, come diceva un grande, preferisco lavorare con gli autori morti perché così non intervengono. Ecco, Massini è, se Dio vuole, vivo e vegeto, e lavora con noi, però quando consegna un testo non si intromette più. Da quel punto in poi la proprietà, diciamo, artistica è di quelli che lo portano in scena, sì, e questo è un grandissimo pregio, perché l'autore che si, come dire, che dice ma io volevo dire questo invece che quest'altro, è insopportabile. Poi molto spesso gli autori non si rendono conto di quello che hanno scritto, mm-hmm, hanno scritto alle volte delle cose anche più profonde di quello che pensavano. Un'ultima cosa, Ottavia, il punto centrale secondo me che mi ha poi folgorato dello spettacolo è che Stefano secondo me ha puntato in maniera ottimale, è un aspetto diabolico per certi versi della proprietà, in questo caso dell'azienda, perché andando a toccare i minuti della pausa, in realtà sembra un aspetto secondario e poco influente, esatto, rispetto alla vertenza, esatto, e invece è un punto centrale, perché loro così testano la capacità di risposta delle operaie e sanno che vanno a dividerle, perché alcune è esattamente quello, ed è quello che succede in moltissime situazioni lavorative, sì, cioè quello che risulta più facile fare alla proprietà, o insomma a chi comanda, diciamo molto più genericamente, è dividere su cose apparentemente innocue, sì, in questo caso sono 7 minuti, in un altro caso sono mezz'ora più o meno dell'orario di lavoro. Insomma, ne abbiamo esempi in tutto il nostro paese e non solo. Certo. E, una cosa che viene fuori molto bene nel film, forse ancora più che nello spettacolo teatrale, che a un certo punto Bianca si arrabbia e dice: avete visto, uno scopo l'hanno ottenuto, ci hanno divise, siamo qui a distruggerci una con l'altra grazie al fatto che ci hanno messo in questa situazione. Quindi questo è uno dei punti secondo me molto molto importanti, molto forti. Insomma, sì, poi gli argomenti dentro il testo e dentro il film sono tanti e sono purtroppo di grande attualità, sì, perché sì, c'è il tema delle operaie, in questo caso extracomunitarie, e quindi delle persone deboli che devono accettare comunque una situazione contributiva, o comunque insomma di lavoro da ricatto. C'è le giovani contro le vecchie, in questo caso io e Fiorella Mannoia, ci sono tanti argomenti che, sì, sono quelli, sì, che sono davvero nel nostro quotidiano ormai. Sì. Ottavia, io ti ringrazio, complimenti. Grazie a voi, grazie. Speriamo grazie di risentirci presto. Al cinema. Mi raccomando che il cinema va visto al cinema. Esatto. Ecco, no, perché qua se no ormai abbiamo perso questa bella abitudine. Aspettiamo che ce lo porti in casa la televisione o internet. No. In sala, mi raccomando. Esatto. Grazie. Un abbraccio e alla prossima. Ciao Ottavia. Grazie, ciao, arrivederci. Ottavia Piccolo, attrice del film 7 minuti di Michele Placido, in uscita in sala oggi giovedì 3 novembre. Eccoci con Enrico Pacciani, regista del documentario Firenze 66 dopo l'alluvione, che sarà in programmazione televisiva sabato 5 novembre. Enrico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie della telefonata. Allora, raccontiamo un po' di questo progetto, come nasce. Guarda, il progetto è nato come idea circa un paio d'anni fa. Sapevo che eravamo vicini al 50° anniversario dell'alluvione di Firenze del novembre 66, che ricorre domani, 4 novembre. Io sono fiorentino, ho iniziato a incuriosirmi a queste figure dei cosiddetti angeli del fango, un'espressione che crescendo a Firenze avevo trovato sempre un po' agiografica e non capivo questi sì. Signori più grandi di me che erano angeli del fango. Parlandoci poi, diciamo, da adulti a adulti, ho scoperto delle storie umane estremamente interessanti, e una cosa che mi colpiva del commento della maggior parte di loro era una sorta di naturalezza etica della spinta per cui hanno agito. La frase "bisognava fare qualcosa", e questo senso d'urgenza volevo capirlo meglio. Mi sono focalizzato poi su quelli fra loro che si sono occupati del recupero, del restauro e del rinnovamento del patrimonio culturale, e sono persone sia fiorentini che italiani provenienti da altre città, che persone venute da tutto il mondo, tutte accomunate da una sorta di comune religione dell'arte, non so come chiamarla, un'idea condivisa che all'epoca, ricordiamoci, erano gli anni 60, un'epoca di divisioni ideologiche molto forti, in cui magari quelli che toglievano i libri della Biblioteca Nazionale, libri ricoperti di fango, potevano essersi scontrati in piazza poche settimane prima perché su opposte, diciamo, divisi da opposte ideologie. Però invece questa cosa, il salvataggio del patrimonio culturale, li accomunava. E ho quindi deciso per il mio documentario di focalizzarmi su figure come artisti, restauratori, storici dell'arte e documentaristi, per cercare di capire meglio come l'alluvione ha trasformato le loro vite e come loro hanno vissuto l'alluvione nei 50 anni successivi. Mm-hmm. Perché appunto il film, la seconda parte del titolo è "Dopo l'alluvione", e racconta cosa è successo nei 50 anni successivi. Mm-hmm. Come è strutturato il lavoro? Allora, ho cercato di rispecchiare il più possibile il racconto di chi l'ha vissuto. Sì. Quindi ci sono interviste a persone che hanno vissuto in particolare il giorno dell'alluvione, e ho affidato alle loro parole, alle loro testimonianze, questo racconto, che è alternato con immagini d'archivio, di repertorio. C'è stato un lavoro molto lungo di ricerca, e il film esiste grazie al fatto che qualcuno all'epoca ha sentito l'urgenza anche lì di documentare. Si va dagli operatori della sede RAI di Firenze, che hanno effettuato delle riprese perché sentivano l'urgenza di, erano gli unici che potevano raccontare questa storia perché poi successivamente fosse condivisa col resto del mondo. Poi i cineamatori fiorentini, le cui pellicole sono state raccolte dall'archivio del Festival dei Popoli, che ci ha aiutato a realizzare il film mettendoci a disposizione queste immagini formidabili. E poi ci sono altri come Mario Carbone, un documentarista immenso degli ultimi 50 anni di storia del cinema italiano, che prese e partì anche lui autonomamente, con un senso di urgenza personale, con la sua cinepresa da Roma partì a Firenze e realizzò un film straordinario che dura 23 minuti, che si chiama Firenze Novembre 66, che nel 66 fu presentato, vinse un Nastro d'Oro a un Nastro d'Argento a Venezia e poi fu presentato proprio al Festival dei Popoli di Firenze, e che quest'anno viene restaurato e sarà proiettato in sala a Firenze domani, così come anche il mio film, che in realtà avrà una premiere in sala in quello che si chiamava Teatro della Compagnia a Firenze, che ora è diventata la nuova Casa del Cinema, appena nuovamente inaugurata dalla Fondazione Sistema Toscana, e che farà una rassegna di film legati all'alluvione nella giornata di domani, aperta a tutta la cittadinanza. Senti, di quell'esperienza cosa rimane oggi? Questa è una buona domanda, perché io ho parlato soprattutto con dei signori che sono in pensione o che sono stati richiamati dalla pensione, alcuni di loro, alcuni restauratori, per completare dei lavori che sono iniziati all'epoca. Quello che mi ha colpito è che di fronte alle catastrofi, alle emergenze, c'è una prima fiammata, un impulso di reazione molto bello. Poi facilmente ci si dimentica, soprattutto le istituzioni, anche per altre contingenze, di continuare a sostenere il lavoro di recupero, restauro e così via. E c'è il paradosso, per esempio, che la Biblioteca Nazionale di Firenze non ha ancora terminato il restauro dei libri alluvionati nel 66 per mancanza di risorse. Mm-hmm. Hanno dei restauratori formidabili che oggi sono considerati fra i migliori del mondo, ma non ce la fanno a far tutto per mancanza di risorse. Mm-hmm. Un'altra cosa che mi ha colpito è una figura che io avevo sentito nominare, ma di cui non conoscevo bene la storia, che è quella di Carlo Ludovico Ragghianti, uno storico dell'arte che aveva una grandissima pulsione etica, ex partigiano, sempre impegnato nel presente per costruire il futuro. E lui, subito dopo l'alluvione, fece due cose. Uno, lanciò un fondo internazionale per restaurare il patrimonio culturale danneggiato, salvare e restaurare il patrimonio culturale danneggiato. E due, lanciò una sfida provocatoria per l'epoca, quella di dire: a fronte di un danneggiamento del patrimonio culturale esistente, fece un appello agli artisti italiani e internazionali: donateci delle opere d'arte e costruiremo un nuovo museo di arte contemporanea. E quindi non cercò soltanto di restaurare l'idea di una città museo, ma di rinnovarla e aprirla al contemporaneo. Sì. E questo aspetto qui è qualcosa che secondo me è un insegnamento che vale ancora oggi, che potrebbe ispirarci oggi in momenti in cui spesso ci si dimentica rapidamente della penultima emergenza e si vive con difficoltà il rapporto fra il passato e il contemporaneo. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, allora la comunicazione è quella più veloce, anche se devo finire di aggiornare la pagina, è quella della società di produzione, che si chiama Alkermes Films. Alkermes è scritto Ancona Livorno K Empoli Roma Milano Empoli Savona, che è il nome di un liquore che si usava per fare la zuppa inglese. E poi anche lo scrittoio che avete menzionato prima segue il film come ufficio stampa, e il loro sito internet è cinecult.scrittoio.com. Ok. Senti, allora, il film è stato prodotto insieme a Sky Arte HD, che appunto lo manda in onda il 5 novembre la sera verso le 21:15, e devo ringraziare anche i partner che hanno sostenuto il film, la Fondazione Sistema Toscana attraverso il progetto Sensi Contemporanei, che domani anche appunto sostiene insieme al Comune di Firenze questa proiezione in sala, e poi la Fondazione Cassa di Risparmio, perché come sentivo prima Cinzia Masotina che parlava della questione delicata della committenza per il cinema italiano o internazionale, anche nel caso di Greenaway. Sì. È sempre dalla collaborazione fra tanti soggetti diversi che si possono fare cose che restano, o almeno che sperano di restare. E questa è anche la cosa che si è riuscita a fare con i restauri dell'alluvione. È stato necessario veramente un contributo di persone, soggetti, anche istituzioni differenti per realizzare dei risultati solidi. Enrico, io ti ringrazio, un abbraccio e speriamo a presto. A presto, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Enrico Pacciani, regista del documentario Firenze 66, dopo l'alluvione, in programmazione televisiva il 5 novembre prossimo, e con lui chiudiamo l'appuntamento di questa settimana con Visionari, che torna giovedì prossimo dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sia sul sito internet della radio, sull'home page, colonna centrale, trasmissione Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari.